Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti per affrontare una nuova giornata insieme. Vi ringrazio per essere in mia compagnia, in compagnia della Nico. Come è iniziata la giornata? Vorrei chiedervi come avete riposato, perché di questi tempi lo sappiamo, con tutte queste preoccupazioni, con il pensiero del Covid, spesso le nostre notti sono disturbate. Bene, oggi vogliamo proprio affrontare questo tema, come mantenere o recuperare una buona qualità del sonno. Ci aiuta un grande amico della nostra trasmissione, che è un grande esperto, il dottor Luca Voledo, biologo e nutrizionista della Clinica del Cibo di Milano ed esperto in naturopatia. Dottora Voledo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, bentrovati. Dottora Voledo, non solo abbiamo bisogno di dormire una certa quantità di ore, ma abbiamo bisogno che il nostro sonno sia di buona qualità e sicuramente il momento non aiuta, diciamo così, ma lei può invece darci una mano. Sicuramente, possiamo considerare tanti presidi nell'ambito dei rimedi naturali, dell'alimentazione, delle regole di igiene del sonno che ci vengono in aiuto, soprattutto quando l'insonnia non ha ancora messo radici troppo profonde. Quindi andiamo subito ad alcuni rimedi che possono essere utili per facilitare il sonno e spesso anche modulare quelle problematiche sottostanti al sonno, di cui questi disturbi del sonno si alimentano, come l'ansia, il nervosismo, l'inquietudine, che come si diceva in questo periodo sono frequenti. Tra i rimedi più interessanti sono gli estratti botanici, i rimedi appartenenti al mondo della fitoterapia, dell'erboristeria. Qui davvero c'è almeno una decina di erbe d'attività sedativa e ipnoinducente che si trovano con facilità, senza bisogno di ricetta medica e con pochi o assenti effetti collaterali. Come ad esempio, dottora Voledo? Fuori nomi! Sto pensando ad esempio alla valeriana, che è una pianta molto conosciuta, che ha degli effetti ipnoinducenti, sedativi. Altre piante meno note come la cataria, che è l'erba dei gatti, che anche questo, un po' come la valeriana, piace molto ai gatti, hanno delle sostanze neuroattive che interessano anche i nostri amici, alcuni nostri amici animali, e hanno degli effetti ipnoinducenti, sedativi e sicuramente molto interessanti per facilitare il sonno, ma anche altre piante come il biancospino, la melissa, il tiglio, la passiflora, molto interessante soprattutto quando c'è un sottostante quadro di nervosismo e disturbi dell'umore. Queste sono tutte preparazioni che io consiglio di acquistare sotto forma di capsule o compresse in cui sono presenti gli estratti concentrati dei principi attivi, perché è chiaro che sono piante che si possono assumere, come fanno tanti, anche come forma di rituale, sotto forma di tisana o di infuso serale. Però le tisane sono delle preparazioni un po' blande, un po' leggerine, mentre invece quando riusciamo a concentrare i principi attivi delle piante in una compressa possiamo, come dire, beneficiare di effetti un po' più consistenti. Dottora Voledo, vado sempre a leggere i post sul suo sito e ho letto che è importante sfruttare le sinergie e gli abbinamenti tra i rimedi naturali, è vero? Bravissima Nicoletta. Vede che imparo, leggo e imparo. Ma c'è una lunga esperienza alle spalle qua. È chiaro che le sinergie sono molto efficaci, infatti molto spesso queste erbe, senza bisogno che i nostri ascoltatori diventino matti, sono spesso in vendita in comode preparazioni in cui nella capsula ci sono due o tre erbe. Magari meglio non esagerare, due o tre sono sufficienti, perché se ce ne sono 15 è chiaro che ci sono quantità insufficienti di ogni singola pianta, ma ci sono in erboristeria, in farmacia, anche in molti negozi di alimenti naturali, delle preparazioni in cui queste piante sono in opportuni mix e vanno tendenzialmente vanno bene. Dottora Voledo, naturalmente il problema non si risolve dall'oggi al domani, i tempi sono un pochino più lunghi, per cui bene alla tisana, che fa parte un po' di quelle ritualità che ci predispone al sonno, o bene un rimedio naturale, magari come lei ha suggerito, che risulta un pochino più mirato, ma dobbiamo avere tempo. Sì, Verissimo, soprattutto appunto quando il sonno comincia con troppa frequenza a diventare disturbato. Allora non c'è da sperare nei miracoli, bisogna agire in chiave più ampia, più globale, considerando anche le regole di igiene del sonno, che sono fondamentali, perché appunto anche governare lo stress, arrivare alle 11 di sera, ecco, nervosi, agitati, pensando al lavoro che dobbiamo fare domani, e sperare di poter dormire, forse una martellata sulla testa potrebbe dire, assolvere a questo compito. Quindi dobbiamo imparare a staccare la testa, utilizzare dei rituali, che anche questi sono strumenti molto importanti. Quindi magari mettere in sottofondo della musica soft, abbassare le luci, perché le luci interferiscono con la produzione di melatonina, che è quell'ormone che il nostro corpo produce proprio per regolarizzare il ritmo sonno-veglia. Se stiamo fino a mezzanotte a guardare il computer, il palmare, lo smartphone, la PlayStation, o ci addormentiamo davanti alla TV, poi dobbiamo svegliarci, passare per il bagno, andare a letto, non dormiamo più. Dottora Voledo, esistono delle interazioni farmacologiche delle piante sedative che vanno tenute comunque in considerazione? Molto giusta questa osservazione. Diciamo che tendenzialmente le piante sono molto più delicate come effetti indesiderati rispetto ai farmaci, anche perché sono meno concentrate, ma non è detto che naturale significhi innocuo, anzi bisogna stare sempre attenti. In particolare, questo è un rischio che io vedo spesso anche nei miei pazienti, persone che magari sono già in trattamento farmacologico per dei disturbi simili o comunque della sfera nervosa, non solo insonnia ma anche ansia o depressione, e queste erbe possono interagire con i farmaci che i sedativi ipnotici o i farmaci antidepressivi, rinforzandone indesideratamente gli effetti, quindi poi avere degli effetti collaterali. Dottora Voledo, abbiamo parlato di erbe, ma c'è un minerale molto utile per il sonno che aiuta ad abbandonarci tra le braccia di Morfeo: il magnesio. Giusto, giusto, questo è un ottimo spunto, perché magnesio, e mi riaggancio anche a quello che è stato appena detto, è uno dei rimedi più tranquilli anche per chi assume terapie farmacologiche, innanzitutto rispetto alle piante che possono interferire. Ma il magnesio è un minerale fondamentale per sciogliere la tensione, un minerale anti-ansia, serve per la produzione del GABA. Il GABA è il principale neurotrasmettitore inibitorio, quindi rilassante. Ha un'azione detensiva, serve persino il magnesio per la produzione di melatonina da parte del corpo. Quindi il magnesio è sicuramente un minerale da contemplare, e sappiamo anche che le persone che soffrono di carenza di magnesio hanno disturbi del sonno. Quindi sicuramente utilizziamo magari certi cibi con più generosità che contengono magnesio: le mandorle, i semi di zucca, cereali integrali, alcuni legumi. E poi possiamo ricorrere ai migliori integratori presenti sul mercato, che possono aiutare a colmare delle carenze e ottimizzare i livelli di magnesio nel corpo. Ma dottora Voledo, di che tipo di magnesio parliamo? Perché questo minerale ha degli effetti diversi. Allora, il minerale È un attimo che abbiamo un effetto differente. È un attimo. A seconda del sale a cui il magnesio è legato, il magnesio è sempre quello, ma non viaggia da solo, viaggia accompagnato, diciamo così. E in tante formulazioni sono tipi di magnesio diversi, alcuni perché costano poco e quindi c'è il magnesio ossido, però non fa quasi niente. Altri, magnesio che non si scioglie bene, magari si scioglie nella pancia e provoca un po' di movimento intestinale indesiderato. Ci vogliono le forme di magnesio che arrivano proprio dove serve, soprattutto quindi nel sangue, nel tessuto nervoso, e quindi in particolare il magnesio glicerofosfato, il magnesio bisglicinato, il magnesio pidolato. Questi sono i nomi un po' complicati che dobbiamo cercare in etichetta, che ci indicano che quello è un magnesio ad alta assimilabilità. Dottora Voledo, c'è anche una relazione stretta tra alimentazione e qualità del nostro sonno. La cosa più importante che possiamo fare dal punto di vista alimentare, l'abbiamo detta in tante altre salse e torna buona anche qua, è la distribuzione dell'introito calorico nella giornata, perché se la cena leggera, di cui parliamo sempre, abbiamo parlato tante volte, ha un ruolo fondamentale anche per evitare di disturbi del sonno, perché la digestione è un processo molto impegnativo per il corpo, e se io mangio alle 9 di sera e vado a letto alle 10:30, sono impegnato ancora a sollecitare l'apparato digerente, il cuore, l'apparato respiratorio, il sistema endocrino che produce ormoni, quindi il mio organismo è molto, come dire, sovraeccitato, ed è chiaro che non dorme bene. Non va bene nemmeno però mangiare troppo poco, perché si potrebbe rischiare una ipoglicemia reattiva, quindi zuccheri così bassi che allertano il cervello per dirgli svegliati che è ora di mangiare, anche se non è vero. Quindi certo, una cena leggera, composta bene, come ben detto tante volte, è la cosa migliore per un sonno di qualità. E parlando di alimentazione e di dieta, mi viene in mente, non posso fare a meno di citare, la nostra nuova rubrica della Bufala in Tavola. L'abbiamo intitolata per l'appunto "Adesso cosa mangio". Potete mandare un messaggio vocale al 335 8304 306 per avere una risposta dei nostri esperti, ma se non vi ricordate il numero che trovate comunque sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, basta scriverla all'amico, cioè obiettivosalute@radio24.it. Dottora Voledo, intanto buon sonno, grazie per essere buon stato con noi tutti. E buona giornata. Noi adesso dobbiamo essere attivi, pronti, indossiamo la nostra mascherina, distanziamento mi raccomando fisico, igiene delle mani per una nuova giornata, e ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca.